Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Ma ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Possiamo cominciare. Cominciamo subito allora a bomba con Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. I ragazzi sono divertiti un sacco con un sondaggio che tra poco vi racconterò. Io finalmente ritrovo il mio compagno di merende, ma almeno facessimo merende insieme, Pierluigi Pardo. Come? Facciamo merenda. Facciamo merenda. La torta merenda. La porti tu da Simona. La torta di Simona, sì, ci pensi tu, io ti aspetto, anche perché sto perdendo peso in modo preoccupante. Quando mi vedrai, capirai. Senti, no, sai che ragazzi, in tua assenza, per ingannare la tristezza, si sono divertiti un sacco in questi giorni con Twitter, nel chiedere opinioni per i tutti convocati awards in diverse categorie: allenatore, portiere, difensore centrale, esterno basso, centrocampista, attaccante esterno, seconda punta, prima punta. Poi commentiamo tutto quanto insieme e tu mi dici la tua. Lo facciamo poi con calma, così arrostiamo gli ascoltatori che possono intervenire. 800 24 00 24, il numero verde. Prima ti devo chiedere un po' di cose, perché non ho ancora sentito la tua opinione. Partiamo da allora, ieri Spalletti ha detto addio, ha parlato ovviamente di Totti, una botta di questo. Ora io spero che continui. Se ero io vado via, spero che continui Francesco. Se tutti si è d'accordo per questo, se la società è d'accordo, continui. E non sono stato io quello che l'ha fatto smettere, perché non sono stato io. Lui ha smesso da solo, perché anche l'età che ha, secondo me, gli impone di smettere. Anzi, l'avrò fatto smettere o l'avrò fatto giocare un anno in più? Vediamo e facciamo un sondaggio. Secondo me l'ho fatto giocare un anno in più. Chiudiamo sto capitolo, Pierluigi. Ma allora, secondo me sulla sostanza ha abbastanza ragione Spalletti. Il problema è la forma e il fatto che questo tema è diventato un tema destabilizzante, un tema che lui secondo me non ha gestito bene. Cioè, che Spalletti, che Totti a 40 anni e mezzo possa non essere più un titolare o un giocatore comunque con un minutaggio di un certo tipo di una squadra che è arrivata seconda in classifica, che ha dei grandissimi obiettivi, che quest'anno ha fatto i record di punti, è una cosa che ci sta secondo me al 100%. Sì. E anche arrivo a dirti, anche se sembra una provocazione da parte di Spalletti, gli ho allungato la carriera, però sai come la penso io? Io penso che l'anno scorso, quindi passata stagione, Totti abbia fatto il fenomeno, ma in qualche modo l'atteggiamento di Spalletti l'abbia anche stimolato. Sì. Questo poi con le buone, con le cattive, sì, col sorriso, sì, col bastone o con, sì, la carota, questo non lo so, ma sicuramente l'ha anche stimolato. Quindi alla fine conta il risultato, come Montella con Capello nell'anno dello scudetto della Roma 2001, che entrava dalla panchina incazzato come una iena, però faceva grandi cose. Quindi secondo me la gestione in campo è stata buona. Il resto non mi è piaciuto, sentire le conferenze stampa con i dati aerobici di Totti nella partitella d'allenamento della primavera, come è successo mesi fa. Non mi è piaciuto sentire queste robe qui, ecco. L'abbiamo detto tantissime volte. Quindi è la differenza comunque tra forma e sostanza. Sì, sì. La sostanza secondo me non è drammatica. Se Spalletti ha fatto bene. No, c'è un punto su cui volevo chiedere la tua opinione. Allora, innanzitutto, questo è uno dei classici casi in cui valeva anche per Maldini, di cui poi parleremo, perché gira una voce interessante. Insomma, di giocatori che chiaramente arrivano alla fine della corsa per questioni fisiologiche, che però non sanno ancora bene che cosa fare, giocare gli piace ancora, non possono più, e quindi rimandano il momento, quel momento lì. Volevo chiederti una cosa invece. Spalletti ieri ha detto: non tutti hanno remato dalla stessa parte. Io a questo faccio fatica a credere, visto il campionato della Roma. Però non so, ma non so se ti è stato chiesto poi. No, lui poi ha detto: non tutti hanno remato dalla stessa parte. Innanzitutto era il momento di fare i nomi. Tanto stava salutando la compagnia. A me non è sembrato una squadra nella quale ci fosse una spaccatura vera al di là del caso Totti. La sensazione, chiedo sì, la tua. Però appunto, cioè io ribadisco la stima profonda nei confronti di Spalletti, che secondo me ha fatto una buonissima stagione e ha migliorato le cose. Cioè l'anno e mezzo di Spalletti è stato nettamente migliore dell'anno e mezzo che l'ha preceduto. Quindi su questo secondo me non c'è neanche da discutere. Sì. Ha lasciato la Roma e lascia la Roma con tanti fiori che sono germogliati anche grazie al suo lavoro. Certo. Questo è indiscutibile. Non ho capito perché abbia dovuto dare lo sfigato a un giornalista, non ho capito perché si... Sì, tante cose dal punto di vista della comunicazione ci sono sfuggite dal 7 gennaio che però sono un elemento non secondario, insomma. Assolutamente. Tra l'altro non credo di dire qualcosa di inedito, ma aspetta, l'altro giorno durante la festa per Totti c'è stato un momento nel quale ha discusso con un giornalista a bordo campo. Sì. Quindi voglio dire, cioè, praticamente davanti a 70.000 persone. Sì. Io l'ho visto dalla tribuna stampa, l'ho visto. Sì. Queste robe io non le capisco. Che l'ambiente di Roma sia un ambiente sicuramente impegnativo, questo non c'è dubbio, però impegnativo, ma non c'è bisogno. È evidente. Adesso vedremo Di Francesco, che sarà lui, ma a quanto pare sì. Allora, ti do la prima categoria dei Tutti Convocati Awards e poi mi dici la tua. Vai. Le quattro nomination erano Allegri, Sarri, Gasperini, Simone, Inzaghi. Allegri, Sarri, Gasperini, Simone, Inzaghi. Io voto Gasperini. Voto Gasperini sicuramente perché secondo me il risultato che ha ottenuto è incredibile. Se non votassi Gasperini voterei Allegri. Su Inzaghi ottima stagione, su Sarri grande qualità del gioco, ecco. Però sì, insomma, voto Gasperini. Quindi voti Gasperini, voterei anch'io Gasperini. I nostri ascoltatori invece hanno votato Allegri, perché gli piace vincere facile. 42 percentuali: 42% Allegri, 29% Sarri, 23% Gasperini, 6% Simone Inzaghi. Ci sta, e magari tutti ci auguriamo che da sabato notte ci stia ancora di più, non c'è dubbio. Sì, su questo. Sì, no, ma infatti, proposito, tutto detto, se non avessi dato la Gasperini avrei votato Allegri, quindi sì, era sì. Il mio secondo. Senti, mio terzo Inzaghi, il mio quarto è Sarri, senza nulla togliere, ma per me la stagione del Napoli, e questo lo dico agli amici napoletani con affetto in maniera costruttiva, è una buona stagione, non ma deve essere un punto di partenza. Un punto, se uno che premio della critica, no, come dire, se uno che arriva secondo l'anno prima, davvero perde Higuain, ma fa gli investimenti che ha fatto quest'anno il Napoli e sì, ha una rosa secondo me complessivamente, lo dico all'inizio dell'anno, più profonda della Roma, e ha una capacità di spesa superiore, perché a gennaio compra Pavoletti in 5 minuti mentre la Roma compra Grenier. Sono d'accordo, poi non lo usi, compri per un sacco di soldi Maximovic non lo usi, eccetera. Allora, in questi giorni stiamo facendo, lo faremo anche oggi dopo le 15, Road to Cardiff, mancano 3 giorni, sentiamo una voce di Zidane, poi Pardo la commenta. Siccome abbiamo fatto di tutto per arrivare alla finale, l'abbiamo fatto bene, siamo contenti. Poi la finale, tu lo sai, la finale non ha il favorito, è un 50-50. Loro hanno una grande squadra, hanno fatto un anno spettacolare anche, e niente, lo che tutti vogliamo è avere una bella partita e vediamo quello che succederà. Nulla di nuovo sul fronte occidentale, pacato Zidane. Sì, ma insomma Zidane non è esattamente, dal punto di vista delle conferenze stampa, uno interessantissimo. È uno, Ancelotti, è stato un giocatore incredibile e ha dei meriti da allenatore indiscutibili, perché uno che fa 2 finali di Champions in 2 anni, è vero che ha tanto materiale, poi ha vinto pure il campionato. Insomma, in questo io sposo abbastanza la linea di Filippo Maria Ricci, cioè che Zidane non abbia tra virgolette inventato nulla, e che quindi i maestri di calcio siano altri ci può stare, però che i risultati siano tutti dalla sua parte, questo è indiscutibile e bisogna riconoscergliene il merito. A proposito di maestri di calcio, me ne è venuto in mente una ora, ma te la dico subito dopo il traffico. Ok. I love this game. Tutti convocati. Convocati. Se dovesse andare via, è evidente che ci vuole un giocatore di spessore assoluto per quello che rappresenta per l'Italia, per quello che lui ha dato all'Italia, per quello che Totti, se eventualmente fosse Totti, io questo non è di mia competenza decidere. Se venisse sarebbe sicuramente un punto di riferimento assoluto, soprattutto per i giovani come questo, come è lui per questi giovani. Quindi è evidente che se dovesse andare via lascerebbe un vuoto che va colmato con la stessa quantità di valori, se posso usare questo termine. Allora, sta parlando del probabile addio di Oriali. Ventura, l'avete riconosciuto, c'era quel ruolo importante, molto importante per la nazionale da ricoprire, quello di team manager, per anni ricoperto mirabilmente da Gigi Riva. Si è fatto il nome di Totti, poi ieri ne è uscito un altro, ha tirato fuori un nostro amico ora in linea, ma ad entrare è Alessandro Alciato, che da Sky che non sentiamo da anche troppo tempo. Dove sei finito? Lavoro troppo, però troppo. Siete mancati tanto, come sempre. Anche Pardo lavora troppo, io non faccio un cazzo tutto il giorno invece. Ascolta, no, mi è scappata una cosa con Pardo, ma la chiedo anche a te, Alessandro Alciato. Allora, Pardo è un noto e dichiarato tifoso dell'Arsenal. Ieri è stato reinchiostrato per altre due stagioni Arsène Wenger. Ah, anche l'Avezzare è un tifoso dell'Arsenal. Vi piace perdere facile. Il rinnovo di Wenger, come me lo leggete? Avreste cambiato o sareste andati avanti con Wenger ormai mummificato, praticamente, su quella panchina? L'Arsenal decide Wenger, quindi è come dire, è un'azienda padronale, ma guarda, mi ha rubato le parole Pier, perché praticamente lui si mette davanti allo specchio e dice: caro Arsène, cosa facciamo? Chi sarà il nuovo allenatore? Lo specchio risponde: e quindi sarai tu il nuovo allenatore, e finché non decide lui di andare via resterà l'allenatore dell'Arsenal. No, resterà per altri due anni sicuro, ma come la regina praticamente è la regina d'Inghilterra del calcio inglese. Poi ovviamente dopo la vittoria dell'altro giorno, che devo dire insomma è stata comunque importante, perché la Coppa d'Inghilterra non è la Coppa di Lega, con tutto l'affetto per Mourinho, è la Coppa, è stata ottenuta da underdog, la squadra sfavorita, e in qualche modo ha salvato una stagione che rimane una stagione storica, però in negativo, perché dopo circa 514 anni l'Arsenal non va in Champions. Quindi comunque potrebbe essere anche una scossa, sì, gli ultimi anni sono stati talmente grigi, talmente mediocri, Proprio per quello, cioè due pensieri li fai, due ragionamenti li fai, però abbiamo capito che Wenger è la regina d'Inghilterra degli allenatori. Alessandro, ieri prima abbiamo sentito Ventura, allora Oriali dovrebbe andare all'Inter, ancora non è certezza. Togliamo il condizionale. Ah, bene, va all'Inter. Oriali va all'Inter, c'è cioè quel ruolo molto delicato di team manager da ricoprire, molto importante, molto importante. Anche, molto, molto importante. Soprattutto per Spalletti. Ieri ha No, è vero, ma mica non è una diminuzio. È molto importante per Spalletti. Stai parlando di Oriali, ma ho capito. No, pensavo alle scelte, perché un nome che ha fatto Ventura è quello di Totti, ma Alessandro Alciato ne ha tirato fuori un altro ieri. Ed Sky. È Paolo Maldini. In realtà il nome di Totti, questo cambia molto la storia, l'ha tirato fuori un giornalista durante la conferenza stampa e dice: ti piacerebbe Totti, caro Ventura, come team manager? E lui ha risposto, come abbiamo sentito poco fa, non è un nome che ha tirato fuori direttamente Ventura. La realtà è molto diversa, nel senso che il nome è Paolo Maldini. Ci sono già stati contatti, in federazione aspettano una risposta, immagino entro fine giugno, perché fino al 30 giugno Oriali sarà il capo delegazione dell'Under 21 all'Europeo, dal giorno dopo diventerà un dirigente dell'Inter. C'è da dire anche, per completezza di informazione, c'è stata un po' di maretta ai vertici federali intorno al nome di Paolo Maldini, perché non sempre i principali dirigenti della federazione vanno d'accordo fra di loro, però alla fine il nome è esattamente quello, e il ruolo è fondamentale, come dicevate voi. Soprattutto Riali è stato grandissimo con Conte, perché lui era il cuscinetto fra Antonio Conte e il resto del mondo, perché non è facilissimo arginare a volte Conte. Però vi confermo che il nome è proprio quello di Paolo Maldini. Percentuale? Percentuale dipende da Maldini. Io credo che questa volta ci siano buone possibilità. Spesso a Maldini non venivano fatte delle proposte a lui congeniali. Penso che questa potrebbe essere una proposta interessante, soprattutto perché non sarebbe una proposta a lungo termine. Io non mi immagino Paolo Maldini in nazionale oltre il mondiale del 2018, il mondiale del 2018. Soprattutto, però potrebbe essere un nuovo inizio corretto per il futuro di Paolo Maldini, che non è più di fatto rientrato nel calcio. Salto di palo in frasca. Soprattutto, posso aggiungere una cosa? Ti rubo solo 10 secondi. Certo. Quelli che adesso sono i giocatori titolari in nazionale erano tifosi di Paolo Maldini. Questo non va sottovalutato, perché quando vedi un idolo che ti entra in casa, comunque ti aiuta a moltiplicare le forze. Evidente. Questo secondo me potrebbe essere fondamentale, come sarebbe Totti nella Roma, ma questo è un altro discorso, adesso non voglio più toccarlo. Invece torno ai Tutti Convocati Awards, perché appunto i ragazzi sono divertiti a fare questo gioco su Twitter nelle varie categorie, e dopo aver detto che miglior allenatore per i nostri ascoltatori è Allegri, per me Pardo sarebbe Gasperini, arriviamo ai portieri. Le quattro nomination erano Donnarumma, Buffon, Kordaz e Szczęsny. Il vostro miglior portiere, il vostro awards va a Alessandro Alciato tra questi quattro? Il mio va a Gigi Buffon, e non sono d'accordo sugli allenatori, direi Davide Nicola, però insomma forse sono l'unico che l'ha votato. Però Nicola Buffon non era nella compilation, era nelle nomination. Io avrei votato Gasperini come Pardo. Ho votato. No, comunque Buffon. Voto Buffon anch'io. Benissimo. I nostri ascoltatori, questo è relativo al campionato, hanno votato invece Donnarumma. 54%. Sì, perché è un po' la sorpresa. Sai, allora, è un po' come il discorso degli allenatori: se voti l'emergente, voti Donnarumma e voti Gasperini. Sì, però su Buffon penso non ci possano essere discussioni. Allora uno dice: perché abbiamo votato Allegri e Buffon, Gasperini e Buffon? Sì, perché non lo so, però insomma, la verità è che sono. Però ecco, secondo me la scelta è fra quei due. No, 54%. La scelta sugli allenatori per me era fra Gasperini e Allegri. Sì, anche secondo me. Di quello che è riuscito a fare un'ulteriore impresa prolungando la storia vincente di una grande squadra, o voti quello che ti ha colpito di più in questa stagione. Rapporto qualità-prezzo, come piace dire, per semplificare le cose. Comunque 54% Donnarumma, 35% Buffon, 6% Kordaz, 5% Szczęsny, non c'è discussione. Senti, Alessandro, tu lo conosci bene, dai, dimmi la verità. Antonio Conte, una tentazione Inter ce l'ha avuta anche solo per un istante oppure no? Credo proprio di sì, che ce l'abbia avuta anche per più di un istante, però la prima scelta è sempre rimasta al Chelsea alle sue condizioni, quindi con un mercato che sostanzialmente non c'è stato come avrebbe voluto lui in questa stagione, con probabilmente degli innesti dirigenziali, perché poi alla fine non c'è un uomo l'Oriali della situazione per capirsi che possa fare da cuscinetto fra lui e Abramovic. No, c'è quella signora con la quale non va d'accordissimo, peraltro. Non è il fatto di non andare troppo d'accordo, ma al Chelsea la situazione è questa. C'è Marina, che è il braccio destro di Abramovic, ma si occupa solo di conti. Quindi, insomma, se devi parlare di soldi va bene, ma se devi parlare di problemi nello spogliatoio va un po' meno bene. C'è Menalo, che è il direttore sportivo, ma diciamo che il suo peso specifico è piuttosto basso. E poi c'è Abramovic, che non dico che sia irraggiungibile, ma quasi, ma ci vuole qualcuno che durante il giorno aiuti Conte nella quotidianità. Poi io non so se glielo prenderanno, però se Conte ha deciso di restare probabilmente qualcosa verrà fatto anche Oriali. In quel senso. Un Oriali, certamente. Però la tentazione ce l'ha avuta forte di andare. Ce l'ha avuta forte, il Chelsea è sempre stata la prima scelta, ma la tentazione c'è stata e forte. Sei di questa opinione anche tu, Pardo? Io sì, penso di sì, da quello che abbiamo capito, da quello che abbiamo saputo, Conte ci ha pensato, e questo spiega anche un po', diciamo, il ritardo poi L'Inter sarà appesa per un po' di giorni. È chiaro che l'Inter è un grande progetto, l'Inter è una grande partita da giocare. Sarebbe stata la terza, praticamente la terza volta nella stessa situazione per Conte: Juventus, sì, Chelsea, sì, e l'Inter un po' nella stessa situazione, perché ha grandi disponibilità economiche che aspetta di spendere nel momento in cui avrà ufficializzato la nomina di Spalletti, e poco da perdere, molto da guadagnare, mentre al Chelsea chiederanno il prossimo anno chiederanno a gran voce la Champions League, e lì Conte sarà chiamato a rispondere, perché lì non può andare fuori col Galatasaray, però dovrà avere una squadra in grado almeno di provarci, cioè, perché certo, la squadra attuale sostanzialmente è quella che era arrivata decima nella scorsa stagione. Non c'è dubbio, è vero, non c'è con dubbio. L'innesto in più di Kanté, che è stato poi il miglior giocatore della Premier, ma il mercato non è stato un mercato che possa giustificare il passaggio dal decimo posto al primo posto. Quello lo giustifica il lavoro di Conte, e Conte adesso vuole monetizzare, ma non solo a livello economico, ma anche e soprattutto a livello tecnico. Anche Allegri quest'anno preferirebbe le coppe, proprio come Ancelotti ha alciato. Ma vuole tutto Allegri. Sì. Vuole tutto. Vuole sì. tutto, ma io credo che lo meriti, perché lui un altro ha fatto un lavoro veramente straordinario. Cioè, Allegri, ricordiamocelo, è arrivato fra gli sputi dei tifosi a Vinovo, lo ricordo, e quasi tutti adesso i rischia, giorni, di fare, rischia di fare il triplete, ma soprattutto Allegri non ha cambiato una virgola del suo modo di essere, e di questo gli va dato atto, perché quest'anno vi ricordate quanti litigi pubblici ci sono stati quando i giocatori uscivano dal campo? Anche quando allenava il Milan, ad esempio, non andava d'accordo con tutti, però ha avuto la forza di non cambiare il proprio carattere, di non cambiare il proprio spigolo, le proprie spigolosità, e rimanendo se stesso è riuscito a fare quello che adesso è sotto, ma lì, come è sotto gli occhi il dottor Arrigo, contano le norme, conta la società in quel caso, la società sì. veramente di granito da questo punto di vista. Ad Alciato non l'ho ancora chiesto, parlo mille volte agli ascoltatori, mille volte, 800240024, ai nostri ospiti mille volte, fossi Allegri con i tripletti in tasca, che faresti, Ale? Allora, fossi Allegri col triplete in tasca, andrei via come ha fatto Mourinho quando è successo all'Inter. Invece, secondo me, Allegri resterà a prescindere da quello che accadrà. Però, a livello teorico, sarebbe anche troppo facile forse andare via. Sarebbe conveniente per Allegri, ma anche troppo facile, perché è chiaro che se vinci il triplete, l'anno dopo cosa puoi fare di meglio? Niente, no, puoi chiaro, solo questo, far di peggio. Questo è però, evidente. C'è anche un elemento di tempistica, perché comunque man mano che passano i giorni le caselle si chiudono, riempiono. Quindi Allegri... Comunque, ragazzi, sono facilitato, ho un suggeritore al mio fianco... Uno dei più amici di Allegri è Marco Nosotti, quindi il allora portiere con gambe aperte, va bene. Secondo me c'è questo elemento veramente di fondo, che comunque poi molte panchine si stanno chiudendo, no? Il discorso di Wenger all'Arsenal con il rinnovo, il Barcellona con Valverde, quindi è chiaro che l'ipotesi, in caso ovviamente quello che tutti i tifosi della Juve si augurano, di vittoria, poi a quel punto il tema è solo un fatto di motivazione, cioè certo, è chiaro che dopo la stagione in cui hai vinto tutto non ce n'erano, la stagione successiva è eguagliare quello che hai fatto prima, potresti avere, è chiaro però è chiaro, anche, per secondo me rimane a prescindere anche rimarrà a prescindere, d'accordo, però sulla questione siamo d'accordo un po' tutti. Potrebbe sempre andare a New York come ha fatto Guardiola a prendere un anno sabbatico, questa è l'unica alternativa, ma anche perché quest'anno di panchine veramente grandi appetibili non c'erano tantissime. Ringrazio Alessandro Alciato. Ciao Ale, grazie, buon lavoro con la nazionale. Pier, ci fermiamo per la borsa, torniamo subito, abbiamo un sacco di altri temi. Prossimo ruolo degli awards, difensore centrale, cominciate a pensarci. Le nomination erano Bonucci, Caldara, Koulibaly, Manolas. Tutti convocati. Sono Enrico Ruggeri, storie affascinanti questa settimana è Il Falco e il Gabbiano. La lunga e meravigliosa vita di Giorgio Albertazzi, l'ultimo imperatore del teatro italiano. E nel giorno della partita del cuore, Gianluca Pecchini, motore e collante del sogno della nazionale cantante. e poi voliamo sulle ali di carta assieme al capitano Ahab, che insegue la bianca balena Moby Dick, la sua ossessione, fino alla morte. Un terrorista per conto di Dio o un uomo libero e ribelle? Raccontiamo la storia di Guy Fawkes. E per finire, un ricordo del grande Roger Moore, il gentleman inglese che ha dato vita a Simon Templar, a James Bond e a Ivanhoe. Vi aspetto tutti i giorni alle 15.30, il Falco e Gabbiano su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere sul fintech, i nuovi sistemi di pagamento, le monete digitali e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. Tutti convocati. Tra poco giochiamo un Verbone Milan-Inter. Ma intanto, allora, ci hai pensato, Pierluigi? Miglior difensore centrale per Mestre Awards. Qui abbiamo il solito discorso di prima. Cioè, alla fine stiamo sempre lì. Con la Juve, se vuoi votare diciamo il valore assoluto, quello dell'Atalanta, se vuoi votare il nuovo la sorpresa, e quindi bisognerebbe un po' mettersi d'accordo, perché già in qualche modo mi sono contraddetto fra. No, non ti sei contraddetto invece. Io sono d'accordo con te, sia su Gasperini che su Buffon. Votiamo Caldara. E voto anch'io Caldara. Voto anch'io Caldara o Bonucci. Infatti quasi tutti hanno votato Bonucci, 62%, 16% Caldara, 15% Koulibaly, 7% Manolas. Io avrei visto un ballottaggio Caldara-Koulibaly, però in effetti Caldara è quello che, insomma, anche considerato che ha preso diversi gol. Quindi per noi è Caldara, per voi Bonucci, ognuno ha le sue idee. 800240024, Giuseppe dalla provincia di Enna, nostri ascoltatori, buongiorno. Sì, buongiorno Carlo. È d'accordo, miglior difensore centrale del campionato Bonucci? Senza ombra di dubbio. Senza ombra di dubbio, va bene, andiamo sul classico. Vi piace vincere facile, ho capito. Un saluto a Pardo. Particolare a Pierluigi. Particolare, a me come al solito, un saluto normale. Vabbè, andiamo avanti. Dica Giuseppe. Sì, allora, io un saluto frettoloso, agente. Frettoloso, giusto perché sei lì. Va bene. Dica Giuseppe. Tipo, non sono d'accordo con quello che ha detto ieri Telese. Spalletti 10 come allenatore, ma 2 come comunicatore. Sì, perché Telese ieri ha dato un voto, ha dato 10 a appunto a Spalletti come comunicatore, voto che non ho condiviso nemmeno io. Ho provato a farmelo spiegare, non ho capito bene le ragioni. Voto alto come allenatore, voto basso come comunicatore. Credo che anche Pardo, che ha salutato in maniera particolare, sia d'accordo. Guarda, io do un 7,5 alla stagione di Spalletti, e credo che. Cioè 7,5 globale. Do 7,5 globale e credo. O 7 più, dai, se vuoi. Credo però che una parte delle difficoltà di comunicazione, o delle asprezze, o dell'eccessiva polemica, l'ha pagata già nei risultati, nel senso che sicuramente alcuni passaggi della stagione della Roma, che ripeto ha fatto una stagione positiva, perché non mi contraddico, io penso che il secondo posto per la Roma sia un buon risultato, perché per me la Roma aveva una rosa da terzo posto, ha fatto il record di punti della Champions, del campionato, ha fatto delle buone cose, ha fallito dei passaggi chiave, appunto la Champions per premiare contro il Porto, ma il non solo per colpa sua e il soprattutto con Lione. Con Lione in Coppa Italia, lì poteva sicuramente andare avanti. Però secondo me queste sue asprezze, questa sua guerra con una parte dell'ambiente ha pagato anche dei risultati, quindi è difficile, il ragionamento ci sta, sicuramente meglio in campo che fuori, ma una parte secondo me di queste piccole fuori campo il voto è insufficiente, cioè su come ha gestito la situazione mediaticamente, non vuoi distinguere. Non vuoi distinguere? Ma no, cioè, voglio dire, io prima ti dicevo Oriali sarà utile a Spalletti, perché Spalletti quest'anno ha dimostrato di essere un allenatore bravissimo, ha confermato di essere un allenatore bravissimo, come ce ne sono pochissimi in giro per l'Italia e per l'Europa, che però veramente credo debba lavorare su se stesso, su certe situazioni, sulla gestione di certe situazioni. Poi alcune volte lui la situazione l'ha gestita. La grande provocazione della passata stagione con Totti che viene rimandato a casa. Certo. Alcune cose Spalletti le ha gestite benissimo. Secondo me negli ultimi mesi invece le ha un po' subite. Sì, perché lo Spalletti di piccolo uomo, poi ci sono registrazioni tutti i giorni, potete riprenderle. Certo, capito. Era una roba chiaro. Senti, torniamo agli awards, giusto per mescolare gli argomenti. Prossima categoria, quella dell'esterno basso, su cui hanno votato via Twitter i nostri ascoltatori. Esterno basso, come va di moda a dire, Alessandro, Conti, Gulam o Rudiger? Io faccio rispondere il nostro ospite Mario Ielpo. Buongiorno Mario. Ciao, buongiorno a tutti. Migliore esterno basso. Riconvocato. Ma grazie a te di aver risposto alla convocazione. Esterno basso, migliore esterno basso del campionato, Alessandro, Conti, Gulam o Rudiger? Ma Rudiger non direi, insomma, perché è troppo centrale per essere il migliore esterno basso, diciamo così. E, insomma, Gulam forse è quello che ha fatto con più costanza il ruolo, poi lo interpreta in maniera, anche in maniera faticosa, perché vanno sempre anche avanti. Cioè, in prospettiva direi Conti a me è impressionato. Però insomma non so se è un voto che può guardare l'attualità. Direi anch'io Conti per i nostri ascoltatori, ripeto, cui piace vincere facile. Alessandro 58% delle preferenze, Conti 31, Gulam 7, Rudiger 4. Ma insomma, vanno su chi ha vinto, non su altri tipi di ragionamento. Mario Ielpo, il Milan sta facendo un sacco di gol fuori campo, no? Sta costruendo praticamente tutto, rinnova Montella, la struttura societaria sembra esserci e funzionare, fa colpi di mercato, torna perfino Rino Gattuso nel ruolo di allenatore della primavera, e quindi sbeffeggia il tuo amico Evaristo Beccalossi, che è in linea con noi, che saluto. Ciao ragazzi, ciao Beck. Ciao Mario. Ciao. No, perché devo sbeffeggiarlo? No, perché all'Inter è il contrario. Per 15 anni in trasmissione, basta. Non sapevo che sia l'ambaglietto. Ciao Mario. Ciao Evaristo, ciao. No. Mario, ho già dato sul sbeffeggiamento reciproco. E vabbè, ma dai, fallo anche oggi. Guarda voi che pena fate. Guarda noi che cosa stiamo costruendo. Tutti i tasselli al posto giusto. No, questo puoi dirlo. Sì, no, direi che un'efficienza che non era quella del Milan, che non era prevedibile, insomma, con tutti i problemi del closing che ci sono stati, con questo 7-8 mesi, con questa dirigenza a bagnomaria che c'era, ma non si vedeva, non si vedeva, c'era e non c'era. Invece appena poi hanno avuto le leve del comando hanno dimostrato insomma, di essere gente competente. E poi dopo questo, la verifica del campo purtroppo è impietosa, sappiamo che il calcio non è una scienza esatta. Sì. Come mi disse una volta Galliani, quando compri un giocatore non compri una macchina ma compri un essere umano, non sai mai, neanche se compri più forte del mondo, se quando poi viene da te lo stesso chiedere ad Evaristo del brasiliano che Gabigol. Comunque lo facciamo dopo il traffico. Ielpo contro Beccalossi, Pierluigi Pardo arbitro, e io che mi diverto con gli awards. Prossima categoria, quella del centrocampista. Le nostre nomination erano Nainggolan, Pjanic, Hamsik e Milinkovic-Savic. Vi chiedo la preferenza a voi ospiti dopo il traffico. Tutti convocati. Convocati. Beh, con Yelp, Beccalossi e Pardo, togliamoci subito questa, questa cosa del miglior centrocampista del campionato. Ripeto, nomination: Nainggolan, Pjanic, Hamsik, Milinkovic, Savic. I nostri ascoltatori hanno votato via Twitter. Parto da Beck. Tra questi qua, Hamsik. Hamsik, sì. Secondo te? Cioè, straordinario, un giocatore che con ha maturato molto carisma, personalità, mi piace molto chiaro. Poi dopo lì ce ne sono due, tre, Nainggolan mi piace, Pjanic mi piace. Quindi, però se devi giudicare da questo però, campionato, Hamsik. Ecco, Hamsik sì, sì, credo che lo meriti, perché insomma, nonostante Benitez che ha cercato di perderlo, perché c'è stato un anno che faceva fatica a giocare a Napoli, lui si è fatto grandi cose, insomma. Yelpo? No, in assoluto direi Hamsik. Quest'anno anche Nainggolan insomma ha fatto bene, però insomma Hamsik sembra un giocatore nettamente superiore, ha fatto quindi una delle sue migliori stagioni. Sì, quindi Marek Hamsik, Pardo? Nainggolan. Io stavolta sono d'accordo con Pardo, Nainggolan e anche con il nostro ascoltatore. Non avevamo dubbi che eravate d'accordo. No, ma, va, no, ma lui, no, lui guarda, siamo d'accordo una moto ogni tanto. Qui guarda, qui è preoccupante che siamo stati d'accordo io e Yelp e Mario. Certo, è questo è preoccupante. Tra due calciatori e due giornalisti io do ragione a due calciatori. Ragazzi, è chiaro che è difficilissimo. Sottolineo che anche Milinkovic Savic ha fatto una stagione. Esatto, da fuori classe. Incredibile. Comunque, tanto che è una vita che è a questi livelli. Nainggolan secondo me ha avuto una continuità quest'anno di rendimento, ha avuto una continuità di rendimento, ha avuto gol, è l'uomo marcato. Nainggolan 47%, Pjanic 24%, Hamsik 19%, Milinkovic-Savic 10%. Questa è la preferenza dei nostri ascoltatori. Torniamo al derby e a Beccalossi. Tu, Pier, pronto a fare l'arbitro? Perché da una parte abbiamo sentito Yelpo, che non se l'è sentita di infierire su Beccalossi. Beck, dall'altra parte di Milano, rinnovo di Montella, inchiostrato ieri, arrivano i giocatori che paiono essere quelli giusti, la proprietà cinese, su cui avevo dei dubbi, sembra avere dei soldi, su Ninghi i soldi ce li ha di sicuro, all'Inter un casino infernale. Ma a parte che è una situazione insomma che è un sacco di tempo il Crosi cambiare, e quindi il Milan ha fatto un percorso con l'era Berlusconi e Galliani straordinario con i risultati sportivi, però mi ha colpito, a parte conosco Mirabelli, so come lavora, quindi sì, si stanno muovendo bene, secondo me bene, in una situazione, e sono arrivati anche in Europa lì, perché secondo me, con tutto il rispetto lo dico dei giocatori del Milan, sì, era difficile quest'anno riuscire ad arrivare in Europa League, eppure sì, con il lavoro di Montella ci sono arrivati. Da parte certo nostra c'è la proprietà che sta investendo molto. Io quest'anno basta chiacchiere, voglio che l'Inter, chi è lì, quando si comincia a fare qualcosa, no? Perché anche Suneghe è arrivato anche molto prima rispetto ai proprietari del Milan. Sì, no, adesso devi fare secondo me quei 4-5 inserimenti, perché hai una rosa che non è che li puoi dar via tutti, però individuare chi ha un certo atteggiamento, che vuole sposare un progetto sportivo, ma non ha anni, l'anno prossimo bisogna arrivare nei primi 4, perché sì, i primi 4 sono in Champions League. Quindi alla luce del sole, cioè, lavorare per l'Inter in questa situazione dove una società è forte, non devi sbagliare. Ma quando la mia domanda, Pierluigi, quando si comincia? Si aspetta l'arrivo di Spalletti ufficiale e da lì Io credo che l'Inter abbia una scadenza tecnica legata al fair play finanziario, che si lega alla partenza di Perisic, ma poi l'Inter farà mercato, l'Inter ha soldi, l'Inter... come diceva a Roma, c'è i soldi e fa la guerra, quindi veramente io ho previsto e confermo che secondo me la prossima grande, proprio se voglio proprio fare il fenomeno, ti dico che la prossima squadra che vincerà il campionato dove non sarà la Juve, ci sono buone probabilità che possa essere l'Inter. Anche qui sono d'accordo, perché mi spiace, però l'ho detto anch'io. Mi sembra di tutti i progetti quello più esplosivo, sì, quello che può crescere di più nei prossimi anni, quindi mi sembra un futuro molto luminoso dal punto di vista economico. Ma certo, la quadra va trovata. Quanto tempo ci potrebbe volere? Così a discorsi spannometrici, un paio d'anni. Yelpo d'accordo, Beccalossi d'accordo? Stiamo proprio a giocare. Stiamo a giocare. Vai Mario. No, sì, scusami. Volevo dire, secondo me poi, insomma, far previsioni è sempre impossibile perché il calcio ci sorprende, sì, tutti i giorni. Allora mettiamo, arrivano Spalletti e Oriali, i soldi no, ci sono. Deve risolvere un problema, sì, cioè a differenza del Milan, dove la proprietà non esiste dal punto di vista decisionale, almeno questo è sembrato finora, e quindi i due dirigenti che sono qui praticamente come se fossero loro i proprietari, fanno, a parte, insomma, la disponibilità economica che gli viene fornita da altri, fanno come gli pare e decidono in un secondo, perché almeno questo sembra. L'Inter deve prima risolvere il problema che ha avuto lo scorso anno, cioè di chi vuole decidere da fuori, la proprietà che vuole decidere una cosa, i dirigenti che a volte non sono d'accordo, scelgono un allenatore che deve essere, no, come è stato l'anno scorso, di afflato internazionale, poi dopo non si, insomma, devono, sì, cambiare prima di iniziare, anche se avevano già preso un altro prima ancora. Ecco, se risolve questo problema, l'Inter può vincere. Ma adesso sono arrivati anche, è arrivato anche un bastimento di dirigenti, compreso Sabatini. Beck, arriverà il tuo amico, tornerà il tuo amico Oriali, come li mettiamo in fila? Dov'è il problema? Quando si comincia? Dov'è il problema? A parte che l'Ele ha un contratto con la federazione, quindi saprà anche il 40-31 e sì, vabbè, ma tanto lui, arriva. Lui, cioè, è chiaro che tornerebbe volentieri, però credo che bisogna parlare, bisogna vedere. Sabatini sicuramente è sopra, è l'uomo del gruppo su lì. Oriali dovrebbe occuparsi della situazione con l'allenatore, con la squadra, come dirigente, con grandi responsabilità, vivendo a piano gentile tutti i giorni e creando le premesse per andare a fare un risultato. Poi, però credo che nel giro di una settimana, 10 giorni, piano A o piano B, secondo me, si sarà. Certo, anche perché siamo, il tempo sì, corre. Quindi, ma su Spalletti allenatore sei d'accordo? Sono d'accordo, io credo che ci sono due allenatori, c'era o c'è Conte, sì, e altrimenti si parte con Spalletti. Il rapporto tra Sabatini e Spalletti credo che sia chiaro, quindi perché non viene ufficializzato, secondo me? Vabbè, è questione di giorni. No, esatto, ma è questione di giorni, di tempistica. Non so se vogliono aspettare alla fine di Champions. Ma perché la campagna qui devi fare in funzione anche con il tipo di allenatore che arriva? Sì, ma staranno già. Il motivo di quale stanno già parlando da tempo. Dai. Questo penso sì. Io credo che nel caso dell'Inter sia quasi più importante. Quello che succede internamente alla società e la figura di Oriali, da questo punto di vista, mi sembra dia grandi garanzie, piuttosto al resto, perché che l'Inter prenderà grandi giocatori con Sabatini e con i soldi che ha a disposizione, io non ho dubbi. Sabatini è un fenomeno dal punto di vista della scoperta dei talenti, è meno un uomo, secondo me, d'ordine a livello, sì, di rapporti interni. E Ausilio farà il mercato? No, Ausilio è una figura che allora poi dipende sempre che ruolo ha Spalletti, perché adesso poi c'è che passare da considerare. Spalletti può fare il coordinatore di tutto il mondo di Suning, del camera sportiva di Suning, sì. Ausilio può fare quel tipo di ruolo all'Inter, con Oriali, sì, che si occupa della parte più strettamente, che fa il ministro degli interni, che secondo me, sì, è particolarmente importante proprio alla luce di quello che questo è chiaro, certo, cioè, Spalletti, certo, non va, certo, in un ambiente facile dal punto di vista dei hai ragione, ma d'altra parte hanno cominciato a rimpiangere Oriali il giorno dopo che se n'è andato con Mourinho, faceva quel ruolo lì e l'ha fatto con i risultati Oriali non ha bisogno di presentazioni, sappiamo con Mourinho, con Mancini, con Ma lo sappiamo perfettamente. Entro breve tempo devi dare un'identità. Sì. Il problema è proprio quello. Grazie ragazzi, saluto tutti. Ciao, è stato molto bello. L'attaccante che è? Vuoi giocare la prima punta? Certo. Velocissimo, prima punta, Higuain, Mertens, Dzeko, Belotti. Voto Mertens perché per il motivo è semplice, perché ha fatto praticamente gli stessi gol di Dzeko, sono quattro fenomeni, gli stessi gol di Dzeko, ma partendo da un'altra parte, no. Voto anch'io Mertens, i nostri attuatori ovviamente Higuain 33%, Mertens 31%, Dzeko 18%, Belotti 18%. Ciao Pierluigi, ci sentiamo domani, noi torniamo dopo il GR. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Devo stare seduto in panchina a guardare. O puoi entrare in campo. Ricominciamo tutti ai nostri posti. E andiamo. Tutti convocati. Road to Cardiff. E mentre il countdown continua, noi ce la giochiamo, insomma, ogni giorno questa strada verso Cardiff, che è lunga, arrivare a Cardiff è lunghetta, anche un po' scomoda, l'abbiamo già detto molte volte. Questa volta la giochiamo sul versante spagnolo e sul versante economico, tanto che c'è qui Marco Belinazzo che da quando andiamo, noto per la cronaca, faccio il cronista, da quando andiamo in onda anche sul web, pagina Facebook di Radio 24 e sito internet di Radio 24, potete anche vederci, si presenta bellissimo in cravatta oggi. Beh, senza giacca, cravatta blu. Lo stile è tutto. Lo stile, come direbbe qualche pubblicitario milanese. Sì. Senti, noi stiamo anche facendo un giochetto che è quello degli awards di Radio 24 per quanto riguarda i migliori del nostro. Chi l'ha inventato questo giochetto? Ma il perfido De Luca, insieme al suo compare di perfidia, Lavezzari, l'abbiamo giocato su Twitter. Le categorie erano allenatore, portiere, difensore centrale, esterno basso, centrocampista, attaccante esterno, seconda punta. Ci sono rimaste l'attaccante esterno e la seconda punta perché i nostri ascoltatori hanno votato Allegri, Banali, io parlo, abbiamo votato Gasperini, Donnarumma, anche qui meno Banali, ma il migliore è stato chiaramente Buffon, difensore centrale Bonucci, esterno basso Alessandro, centrocampista Nainggolan, mentre ti avverto che Beccalossi e Hjelpo hanno votato Hamsik. Sei d'accordo? Assolutamente sì. E prima punta, io avrei votato Mertens, Pardo avrebbe votato Mertens, mentre loro hanno votato Higuain, 33% però di misura, 31 Mertens, staccato Dzeko 18, Belotti 18. Beh, no, devo dire che sono abbastanza d'accordo con questi voti. Hamsik, bellissima stagione. Oggettivamente Nainggolan. No, anche Nainggolan. Cioè tra i due? Tra i due Hamsik preferisco, però capisco. No, preferisci in questa stagione? In questa stagione io credo sia stato determinante Nainggolan per la Roma e quindi più determinante per il campionato. Sono d'accordo anch'io. E, però credo che in assoluto, alla fine per un fatto, come dire, quasi... obbligato dalla sorte, cioè sì, il cambiamento di ruolo, il giocatore che abbia fatto appunto il Mertens, maggior incremento di valore, senza dubbio, ma credo senza che su Mertens chi se lo immagina. 800 24 00 24 è il numero verde. Saluto Filippo Maria Ricci. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Ciao, che, mamma mia, come ciao. Ti sento bene, divento matto, mi fai godere come un riccio. Voci di Zidane. Ieri c'è stato il Media Day del Real Madrid dopo quello della Juventus. Sentiamo Zinedine. Sono tutti, tanti sono bravi, però Dybala è sicuramente offensivamente uno dei più forti. Poi c'è Higuain, poi c'è Alves, poi c'è, sono tanti giocatori nella Juve che sono bravi. Io ti dico 3-4 perché si parlano sempre di questi giocatori. La stessa cosa quando parli di quali giocatori nel Madrid, però sono tutti bravi. Io sono qua, quindi adesso penso solo in lo che sto facendo qua. E poi la Juve, ho fatto 5 anni alla Juve e sono stati bei ricordi. Adesso è un po' speciale questa finale, però noi la Juve farà su finale e noi prepareremo la nostra. L'importante è avere una bella partita e niente, vediamo quello che succederà. Sì, Gesù è uno ancelottiano, non è che si sbilancia, non è che dice cose eclatanti, non è che insomma sia il suo stile di comunicatore. Quindi con Filippo Maria Ricci, come ho fatto l'altro giorno con Dario Ricci, gioco all'ufficio facce. Cosa dicono quelle del Real Madrid, Filippo? Sempre la solita storia, sono tranquilli, sicuri di se stessi e affrontano una finale di Champions come tante altre partite. C'è questa come si può dire, abitudine a giocare partite importanti, ma in generale questa potremmo chiamarla anche spocchia se la vogliamo vedere da qui, però per me è un fattore di sicurezza, un fattore di sicurezza nei propri mezzi sì, che fa sì che il Madrid affronti quindi le partite non, più o meno non tutte note nello stesso. Rughe di preoccupazione, non note sguardi. No, rispetto sì, però sì, ma non normale vigilia di finale di Champions, di normale vigilia, esatto, di normale finale di Champions League. Diciamo cioè così. Solo la terza in quattro anni, no? Cioè, e poi sai, la fame, no? L'appetito viene mangiando, questa gente è abituata a così, cioè, ha infilato questa serie positiva, perché bisogna anche ricordarsi che il Madrid ha avuto una lunga serie negativa, certo. E quindi a me piace in parte questo club, perché comunque non so, tra la sexta e la settima coppa sono passati 32 anni, certo, no? Poi certo, la decima non arrivava mai, adesso improvvisamente c'è quest'onda clamorosa, e la cavalcano come cavalcavano anche gli anni bui. L'ha detto l'altro giorno Sergio Ramos, mi è piaciuto quando dice noi qua abbiamo vissuto anche momenti duri, hanno mangiato il pane duro, poi hanno ricominciato a vincere, ed è gente che ha vinto europei, mondiali, quindi insomma sì, per loro è una partita, cioè è una, ti ripeto, è una normale vigilia di una normale finale, sì, quindi esatto, sono passati attraverso le sconfitte, perché da lì bisogna passare per diventare, per costruire qualcosa di grande, e questo vale grosso modo in tutta la storia dello sport e di ogni sport. E loro non lo hanno fatto, e adesso sono in pieno controllo, in piena fiducia. Adesso Berinazzo ti dice quanto vale questa finale. Vai. Beh, questa finale devo dire che... Economicamente. No, lo dicevo dal punto di vista economico, paradossalmente vale poco per le due squadre rispetto al monte premi che hanno già accumulato finora. Perché, che sarebbe? Beh, la Juve andrà, credo, intorno ai 120 milioni. Sì. Il Real credo si fermerà, indipendentemente da chi vinca, meno, su una soglia inferiore alla Juventus, per una questione di diritti TV, di market pool, quindi indipendentemente... Quindi circa 90? Beh, il Madrid di solito si è fermato sì su questa soglia, non è mai arrivato ai 100 milioni, perché in Spagna i diritti TV della Champions sono più bassi e ci sono soprattutto più squadre a dividerseli. Sì. Che normalmente arrivano fino in fondo, quindi questo effetto paradossalmente ha fatto sì, per esempio, che negli ultimi 5 anni, quindi a prescindere da questa finale, la Juve abbia incassato per le sue partecipazioni alla Champions 205 milioni. Questo grazie anche alle altre 200. Italiane che mancavano. Esattamente. Come sappiamo, inutile dire, omaggio. Inutile dire appunto che l'indotto per Cardiff sarà enorme, così come lo è stato per Milano. Gli ultimi calcoli parlavano di cifre intorno ai 20-30 milioni di indotto per quanto riguarda appunto quello che produce una finale Champions, sarà vista in oltre 200 paesi, quindi è uno degli eventi planetari dal punto di vista, certo, dello sport business, oltre che ovviamente forse l'evento più importante di questa stagione, visto che non ci sono mondiali. Sentiamo che Stefano da Roma, ascoltatore, dica. Sì, buonasera. Buonasera. Allora, io ho una considerazione e poi anche una domanda. Lei è romanista? No, sono di Roma, ma sono juventino. Ah, juventino. Dica. Allora, io ritengo che quest'anno le due squadre si equivalgano, insomma, come giocatori in campo, sia Juventus che Real Madrid. E quindi, mai come questa volta, sarà decisiva la tattica. E quindi ritengo Allegri nettamente superiore a Zidane da questo punto di vista. E quindi ritengo anche che alla fine il risultato sarà... Rotondo. Sì, c'è molta fiducia. C'è molta fiducia. Io, allora, la mia idea è che le due squadre, se parliamo di monte talento, non si equivalgano, ma si lasci preferire leggermente il Real Madrid. Se parliamo di struttura di squadra, di organizzazione, si lascia preferire la Juventus. Non so se condividete, Filippo e Merinazzi. Sì, sì, secondo me a livello di talento il Real Madrid è superiore. Soprattutto se guardiamo poi il globale, inclusa anche la panchina. Il Madrid ha grandi, grandi armi anche in panchina. E, però è chiaro, la Juventus ha preso tre gol a palla inattiva, no? E non c'è ancora stata una squadra in questa, no? In questa Champions che ha preso il pallone nella sua area, l'ha portato di là e l'ha messo dentro, no? Nella porta di Buffon. Questo mi sembra assai rilevante. Il Madrid arriva, no, da 64 partite a segno, è chiaro, una grande potenza. Però io vedo la Juventus ha acquisito più esperienza, insomma, non c'è paragone con quella che era la finale di 2 anni fa. No, assolutamente. Assolutamente. Le distanze sono avvicinate, è chiaro, sei di fronte a uno squadrone, se no non poteva arrivare, no, a 3 finali in 4 anni. Però è una... concordo con l'ascoltatore che dal punto di vista tattico Allegri abbia qualcosa in più. Anche se abbiamo detto, noi abbiamo parlato tutto l'anno di Zidane, è molto migliorato, è cresciuto, però sono due squadre da questo punto di vista estremamente differenti, no Marco? Sì, sono diciamo reduce in questa stagione dall'aver visto da vicino, no, il Real Madrid contro il tuo Napoli, con il Napoli, e devo dire che è una squadra impressionante quando decide di fare la partita, ma che ha quelle fragilità che sinceramente nella Juve non ho mai visto in Champions e raramente in campionato, ma quando si distraeva, e non credo che andranno a Cardiff per distrarsi. Per cui da questo punto di vista, quando la Juve si schiera per esempio in difesa, quasi assumendo un atteggiamento pallanuotistico, a testuggine, no? Testuggine, con giocatori grossi, ma anche con la capacità poi di saper tenere in maniera molto disciplinata la posizione, diventa complicatissimo. L'ho diventato, per esempio... Questo mi ricorda l'Inter di Mourinho, quando gli altri sono in possesso palla, si forma quella specie di, appunto, di testuggine, no, di falange, e lì devi peraltro entrare con la palla. Carlo... Scusa, la Juventus ha giocato contro l'attacco migliore della Liga portoghese, della Lega francese e della Liga spagnola, e ha preso un gol. Sì. 6 partite contro i migliori attacchi di 3 campionati. Cioè, magari quello portoghese e quello francese non saranno, però insomma, comunque sono squadre serie, e ha preso un gol. Ma soprattutto, non so se condividete, la Juve ha dato poi l'impressione che era pronta ad assumere questo atteggiamento, questa attitudine, non perché costretta dagli avversari, ma quasi per scelta durante la partita, con una consapevolezza chiaro, che nessun'altra squadra in Europa, insomma, mi ha dato in questa stagione. Benignazzo, dimmi invece, questo piacerà molto a Sarri, Filippo Mario Ricci magari lo sa già, lo raccontiamo ai nostri ascoltatori, la sfida dei fatturati. Beh, ora, io non voglio pensare che Allegri assuma una terminologia sarriana e si mette a discutere di fatturati. Dimmi qual è la sfida dei fatturati. La sfida dei fatturati non c'è, nel senso che il Real Madrid fattura 620 milioni strutturali nel 2016, cioè senza le plusvalenze del calciomercato. Sì. La Juventus arriva a 3,40. Quindi c'è un dislivello è un po' più ampio di quello che c'è tra Juve e Napoli. Quindi sopra 250 milioni. L'allenatore della Juventus si va anche in campo. La cosa interessante, si va in campo, ma insomma, da potendo favoriti. Sognare ma non programmare la vittoria, usando portando sempre un lessico sarriano. Ma al di là di questo, la cosa interessante è che ero curioso di capire come mai si è creato e quando si è creato questo dislivello, perché tornando un po' indietro nei conti, intorno al 2005-2006, quindi non 30 anni fa, in realtà la distanza tra Real Madrid e Juventus era di appena 40 milioni a favore degli spagnoli. E quello che ha creato effettivamente la cesura, ora non voglio dare la stura a polemiche, forse sì, meglio diamo la stura a polemiche, quello che vogliamo. Oggettivamente è stato Calciopoli, certo, che ha determinato in pratica... Che ha azzerato la Juventus, questo è evidente. Di fatto ha determinato, al di là dell'anno in sé della Serie B, ma un rallentamento, capisci, sul fatturato, che è sceso intorno a 140-150 milioni. E la Juve poi in questi anni, da quando è tornato appunto in Serie A, è riuscita, diciamo, nel piccolo miracolo di riportare i conti in ordine, perché ora la Juve più o meno in pareggio, creare la squadra e ottenere le vittorie che sappiamo, costruire lo stadio e incrementare di circa 200 milioni all'anno. Anche Real Madrid è cresciuto tanto, anche Real Madrid rispetto al 2006, assolutamente, quello che va sottolineato. Prima parlavate, no, anche degli anni bui del Real Madrid, la cosa strabiliante, che nonostante insomma non arrivassero di per sé le vittorie, però la storia e l'organizzazione societaria del Real ha fatto sì, De Blancos ha fatto sì che comunque in quegli stessi anni il fatturato crescesse. Il sole splende su Madrid anche da quel punto di vista. Sì, il marchio è sempre tirato, appunto, perché bisogna ricordare, qua fecero 6 anni consecutivi uscendo agli ottavi, no? Tipo l'Arsenal, e poi 3 semifinali consecutive con Mourinho, però sì, il marchio tira, e si vede qua, insomma è una macchina da soldi, lo stadio è più grande ed era già avviato, perché c'è anche da dire questo, cioè la Juve ha costruito un nuovo stadio, però è intanto più piccolino rispetto, è la metà, no? Rispetto al Bernabeu, certo. E comunque era una cosa nuova. È appena, scusami, ma Filippo, appena pianificata, no? La ristruttura da oltre sì, 500 milioni, giusto perché sì, ma questi puntano ad arrivare, adesso sono a 620 di fatturato, secondo me l'idea è quella di arrivare al miliardo. Sì, la sfida diciamo, è quella tra Real United e Barcellona, chi arriva prima al miliardo. Esatto, insomma questo è il, bisogna vedere se sono 5-6 anni, non so quanto si può ipotizzare, però forse anche meno, questa è la grande realtà. Però cioè, la Juventus è un club modello, no? In questo, assolutamente, in questo senso, cioè, allora è un normale grande club europeo, perché non è un'astronave atterrata in Italia, semplicemente la Juventus è l'unico club italiano gestito in maniera contemporanea. Mi ha sorpreso il dato contemporanea. No, una cosa solo, guarda, poi dopo ti lascio Marco. Ultimi 4 anni, 4 finali di Champions, o sono state spagnole o è stata la Juventus. Basta. Sì. No, chiaro, mi sorprendeva il dato, ero giovedì, insomma, con Marotta, c'era una manifestazione di sponsor, appunto, però è venuto fuori questo dato, la Juventus ha oggi 500 dipendenti. 500 dipendenti, non sono chiaramente calciatori. Il dato mi ha sorpreso, infatti dovrò andare a verificarlo, però questo numero, per esempio, ha fatto la Juve una scelta molto azzeccata, è quella di portare in casa il merchandising. Adidas studiava circa 6 milioni all'anno. Sì. Nel primo anno i ricavi da merchandising sono stati di 13 milioni e mezzo. Chiaramente aumentano i costi perché devi assumere, però è anche vero che una volta che hai ammortizzato quei costi, i ricavi sono tutti tuoi, e di conseguenza il margine di utile aumenta. È una grande azienda to cure, non calcistica. Roberto, provincia di Massa, bellissima questa discussione, mi sto appassionando. Roberto, dica. Precisiamo di Carrara, nonché vicino di casa della famiglia Buffon. Va bene, precisiamo di Carrara, perché il campanile conta. Dica. Campanile. Niente, io mi riferivo a quello che avevi detto poc'anzi, riguardo soprattutto a quella frase, dichiarazione che ha fatto Cristiano Ronaldo ieri sera, dicendo siamo al grande attacco, eccetera, eccetera. Comunque deve fare i conti con la più grande difesa d'Europa, perché in Champions tenete conto che il Real ha subito 17-18 gol e la Juve 3, di cui uno regalato al Monaco, quindi con l'attenzione ormai finita della partita, e quindi poi fare i conti con il più grande ma lo sanno, ma io credo che lo sappiano, non ha mai avuto un attacco così forte, Roberto, come di penso che lo sappiano perfettamente anche loro, no Filippo? Sì. No? Lo sanno benissimo, però appunto diceva ieri Zidane, dice questa non è una sfida, cioè è riduttivo attacco dire difesa. Noi attacchiamo meglio, loro difendono meglio, non è così, insomma in realtà c'è molto di più, però è chiaro che certi numeri poi pesano sulla sfida, insomma questa è la sfida del miglior attacco e la miglior difesa, no? O forse vogliamo, dimmi, così, semplificare. Da non espero, credo che sarà fondamentale la sfida tra Marcelo e Dani Alves. Sono due giocatori che possono dettare il cambio di equilibrio. Piuttosto è da capire, a Filippo Maria Ricci voglio chiedere anche le ultime due cose, e gliele chiedo insieme anche se riguardano due, sono profondamente diverse. Allora, Borsino Bale, che per decreto dovrebbe giocare in Galles a casa sua. No, non gioca, ieri è stato non molto... gioca? No, per me non gioca. Ieri è venuto in... c'era questo media day, questa zona mista, ben organizzata, a parte che ecco, parlando di numeri, io ero qui anche al Media Day l'anno scorso, secondo me le presenze sono raddoppiate rispetto alla finale di Champions tutta madrilena, detto questo. Allora torniamo a Bale, raramente ho visto tanta onestà, una disamina delle proprie condizioni, del proprio stato di forma, di salute e anche di quello del concorrente, ovvero di Isco, tanto onesta, tanto sincera. E sì, lui più o meno ha detto, dice, non sono al 100%, per cui ovviamente sognavo da bambino, dice, ha detto una frase anche molto bella, molto poetica, dice, da bambino io, sì, sognavo di giocare alla Champions, ma non a Cardiff, non c'era manco lo stadio. Sì. Dice, per cui si è non chiamato fuori, ma, perché non, scusami, è che non si chiama fuori. Diplomatico, secondo te, diplomatico o reale? No, molto reale. Sincero, bello, proprio bello da vedere. Poi ovviamente le cose magari l'impressione sbagliata, però mi sembra che sia stato lui stesso, insomma, giocherà probabilmente una giocherà un altro parte, che deve essere al 100%, perché questa partita va giocata, esatto, al 100%. Esatto. Allora, e la seconda cosa? La seconda cosa, molto rapidamente, perché abbiamo meno di un minuto. Vai. Messi ha perso la sfida, voleva il secondo di Luis Enrique sulla panchina, sì, del Barcellona, andrà al verde. Sì, è andato al Celta, è andato lì per colpa della Juve, se vogliamo dirlo brevemente, nel senso figurato che la Juventus ha buttato fuori il Barcellona dalla Champions. Il fatto che Unsue potesse aspirare al posto di numero uno era legato ai risultati. I risultati non sono arrivati e quindi è stato scelto il Cingurri Valverde, la formica. Benissimo. In basco. Allora, il sondaggio, gli awards, lo finiamo domani perché non abbiamo tempo. Io ringrazio Filippo Maria Ricci dalla Spagna, ringrazio Marco Bellinazzo dal piano di sopra, al Sole 24 Ore. Fatto meno strada, diciamo così. Sì, meno strada. Giorgio Luca, il nostro dottore, Gianmarco Ferronati in regia, Edoardo Lavezzani in redazione. Ciao a tutti. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.